Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. San Harvey Victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. Questo era il Golden Jubilee del 2002 sul roof del Buckingham Palace, ecco, grandissimo, sì. By a me del 2002, perché, cari ragazzi, lo so, dovremmo forse aver iniziato questo speciale di Conti della Belva al referendum che si tiene nel Regno Unito per il Brexit 23 con un tono più mesto, perché ovviamente è un referendum che può cambiare tutto per via dell'assassinio della parlamentare laburista Jo Cox, che c'è stato l'altro ieri. Però lo spirito di questo inno è lo spirito comunque del paese a cui noi dobbiamo moltissimo, nella storia della rivoluzione della libertà, della democrazia, della scelta dal basso, e ancora una volta questo referendum mette in crisi tante convinzioni profonde. E allora abbiamo dedicato queste due ore, in un'Italia distratta, come è giusto, dai ballottaggi, da tante altre vicende, dal referendum di ottobre sulla Costituzione, al referendum che rischia di cambiare l'Europa. Perché rischia di cambiarla profondamente, rischia di cambiare non solo la Gran Bretagna, rischia di cambiare molto di più l'Unione Europea, di avere conseguenze sul nostro paese e così via. E siccome sono tantissimi gli aspetti che il dibattito italiano, secondo me, non ha messo in luce, perché appunto siamo distratti da altro, rischiamo di dare, e lo capisco, scusate, ma il paragone è per riflettere, come sempre, più spazio sui giornali al fatto che l'atletica russa per via del doping non è ammessa ai giochi, che capisco, problemone, però insomma, ragazzi, se il 23 i britannici dal basso dicono non ci convince più l'Unione Europea, il grande paese che esce non è la Grecia, siamo chiari, ve lo rispiegheremo, e questa cosa può mettere in atto un domino a catena, le conseguenze della quale sono oggi imprevedibili per tutti, ma sono così serie che bisogna davvero approfondire. E quindi per una volta abbiamo deciso di fare queste due ore su questo, insieme a me, ovviamente, e meglio di me, e compare dei Conti della Belva, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, che ci tiene a precisare di essere repubblicano, però perché tu mi fai cantare God Save the Queen, diciamo che guarda, God Save Britain, se ti volete. Dirò che siccome a quella monarchia hanno insegnato nel 1649, tagliando la testa a un re, quali sono i suoi limiti, tante volte mi sono chiesto se la monarchia britannica non sia meglio di non di... lo è, non lo è. Questo, la sono repubblicano anch'io. La democrazia britannica è un faro luminare. Fatemi dire, happy and glorious, vestita così sembra uno stesso della Italia. Adesso, con tutto rispetto, no, non c'ha le calze verdi. Mi dispiace, c'ha il vestito verde. Qui, Elisabetta, a voi ha questa meravigliosa tinta di verde per il 90° due giorni fa. Nessuno la userebbe. Lui era perfetto e ha ordinato, naturalmente, al figlio di Carlo, che era a fianco con il nipote, in ginocchio sul balcone, ha detto: alzati in piedi che c'è la RAF e tu sei della RAF. Una roba formidabile, cari amici. Allora, in questi pochi minuti prima di entrare nel merito del Brexit, concediamoci tre minuti, cari compari, con cui distillate in brevissime pillole che cosa, comunque, ciò malgrado, vale la pena di sottolineare ai nostri ascoltatori di vicende italiane di questa ultima settimana. Ma io due cose mi hanno colpito. Beh, una continua a colpirmi in maniera continuativa ed è la galleria degli orrori che esce dalle due banche venete. di tutto praticamente, cioè una cosa inenarrabile, questi famosi fidi, no, concessi per comprare azioni, ma quello è anche il meno, perché gente che aveva bisogno di smobilizzare l'investimento in azioni per fare spese o altre cose, visto che non poteva smobilizzare, visto che non erano quelli fortunati, si è presa mutui. E questi mutui adesso, visto che il collaterale, la garanzia è carta straccia, questi mutui diventano automaticamente sofferenze e vanno a rientro. È vero che c'è stata la sentenza di una giudice civile del Tribunale di Venezia che ha detto che le operazioni baciate, quindi diciamo finanziamento contro azioni, diciamo sono un'anomalia, come tale vanno congelate, però è veramente una situazione distruttiva e devastante e non se ne vede la fine. Noi comunque aspettiamo le azioni di responsabilità perché quelle ancora tardano e non ci sono ancora. A Carige ne hanno fatta una però per le cessioni fatte da chi c'era prima. Quella probabilmente per recuperare risorse retroattivamente, che è una fattispecie diversa. Qui ci sarebbe qualcosa da dire, ma prometto che non lo dico. No, poi un'altra, sì, esatto. Ma lasciami dire però che l'ispezione della BCE è finita sui giornali, cioè è praticamente pubblica. Per anni e anni i verbali dell'ispezione della Banca Italia noi non sapevamo nulla. Esatto. Infatti eravamo sempre in questa sorta di confessionale, di conclave. L'altra cosa che mi ha colpito è questa sentenza di un tribunale minore di Pechino, minore a livello di giurisdizione, specializzato in tutela della proprietà intellettuale, che praticamente ha condannato Apple perché l'iPhone 6 e il 6 Plus, ma ovviamente anche il 6S avendo la linea identica, violano diciamo il copyright di un produttore cinese di telefoni. Per cui questo mi pare un caso, diciamo, di uomo che morde cane. È veramente notevole, diciamo, questa nuova aggressività con cui la Cina sta cercando di proteggere la propria, diciamo, tutela della proprietà intellettuale. Questo è veramente singolare, però è anche un segno dei tempi. Albert. Io mi devo aggiungere al cahier de doléances bancario, però questa volta lato regolatore. Consob ha autorizzato un secondo prospetto integrativo alla quotazione di Veneto Banca. Sorprese. Pochi giorni dopo il primo scopriamo che i numeri necessari per la continuità aziendale non ci sono, nel senso che abbiamo degli indicatori di liquidità nettamente inferiori al minimo regolamentare. E quindi, diciamo, io mi domando, dopo tutta la vicenda di Vicenza, come si faceva a ripresentare al mercato una situazione sostanzialmente identica senza prendere provvedimenti in precedenza? Ci stiamo facendo prendere in giro da mezzo mondo perché in maniera ingenua e secondo me non responsabile stiamo esponendo il nostro capitalismo finanziario a una severissima critica da parte di chi considera il mercato un insieme di regole da rispettare. Stiamo proponendo in borsa, ovviamente, a questo punto è scontato, dopo che anche i grandi azionisti, sempre di Veneto Banca, alla fine hanno ritirato la manina, è scontato che questa offerta non andrà in porto, quindi dovrà esserci, presumiamo, ecco, qui ne parleremo poi con Brexit, l'intervento di Atlante, ma insomma, secondo me, ripetere la manfrina di Vicenza un mese dopo, esattamente con le stesse condizioni, anzi peggio, pubblicando addirittura un prospetto di complemento, per me è un'operazione francamente dopo 1100 pagine del precedente. Comunque, adesso la questione che si porrà è: Atlante cosa fa? Le gestisce? Le fonde? Fonde queste due cose così? Ma io non so. Comunque, siamo nel senso totale. No, ma non le può fondere, dai. Ma hanno una posizione di mercato troppo importante sul territorio. Non sovrapposta. Non esiste. Cioè, dal mio punto di vista, ecco, l'idea, ancora una volta, accarezzata da tanti, della Banca del Territorio, va contro i principi della Unione Bancaria Europea, che invece prevedono una dispersione del rischio e non una sua concentrazione, una concorrenza a diversi livelli e non dei monopoli locali. Insomma, mi sembra che viviamo fuori dal mondo, o forse noi stessi sogniamo una it-exit che in qualche maniera non viene confessata ma corre come un fiume carsico. Non lo so se non viene confessata, c'è chi tifa esplicitamente, altri che tifano implicitamente anche nei regolatori finanziari italiani, perché da Brexit, dall'eventuale Brexit scelto dai britannici, si scatena tutta una serie di conseguenze a catena, una delle quali è quella che si torna alla regolamentazione ovviamente stiamo parlando di scenari ipoteticamente terrificanti, Sì, ma guardate, se si rompe la catena, adesso dopo il traffico ne parliamo, guardate che c'è chi spera che si torni alle vecchie regole, ai banchieri, amici degli amici. I Kempori dicono, nel resto dell'Europa, diciamo così, le istanze anti-europee si sintetizzano nello slogan basta banchieri. Da noi, l'unico paese in cui si sintetizza nello slogan, torniamo ai banchieri, amici degli amici. Ognuno del resto ha le proteste che si merita. Tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui in studio a Milano, cari ascoltatori, con i compari dei Conti della Belva, Oscar, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, puntata speciale dedicata a Brexit. Io vi dico subito che c'è un'intervista, un colloquio di Mario Monti oggi sulla stampa in occasione del meeting italo-americano che c'è a Venezia, in cui l'ex presidente del Consiglio dice no, io sono contento che in Italia non sia previsto dalla Costituzione vigente, e così resterà anche in quella riformata, la possibilità di fare referendum dal basso sui trattati e quindi sull'Unione Europea. Io non la penso così. Io penso che invece i referendum, ce ne sono stati oltre una trentina di vario tipo nei paesi membri dell'Unione Europea, nei decenni dell'Unione Europea. La stragrande maggioranza, tra gli alcuni che sono stati incidenti seri, hanno avuto esiti favorevoli. Incidenti seri ci sono stati, e come, ci sono paesi che più e più volte hanno votato no sia all'Unione Europea che alla moneta europea. Ci sono stati grandi paesi come la Francia e l'Olanda che hanno bocciato la Costituzione Europea, ma il più hanno avuto esiti positivi. Cioè, io penso che sia bene poter votare dal basso, io non diffido dagli elettori. Oltretutto questa cosa spinge i politici a dover avere buoni argomenti per vincerli. Se non li hanno, beh, è un po' difficile prenderla con gli elettori. Detto tutto questo, ricordo, tanto per cominciare, che noi abbiamo però un unico vero grande, un unico precedente di paese membro che è uscito, non è vero che non ce n'è, perché negli anni 80 lo fece la Groenlandia, certo, va bene, piccola parte della Danimarca, ma lo dico solo perché la Groenlandia in quanto tale ci ha messo 3 anni poi per trattare le conseguenze. Ricordo a tutti che in caso di vittoria del Brexit il referendum in realtà non è vincolante, ma il governo è obbligato a tenerne conto. A quel punto deve procedere a formalizzare una richiesta al Consiglio europeo. A quel punto il percorso previsto dal trattato in 2 anni prevede che sulle guideline della trattativa, cioè sulle linee guida della trattativa tra Regno Unito, che chiede di uscire, e la Commissione, si deve pronunciare all'unanimità il Consiglio europeo. Al termine del negoziato ci deve essere un voto in cui il Consiglio europeo ha la maggioranza, quindi sono 20 su 28 e il 65% della popolazione e UK che lo ratificano. Ecco, questo è diverso poi da tutta la lunghissima serie di accordi bilaterali che vanno negoziati, il processo dura anni e anni e anni, perché bisogna vedere a quel punto in che ambito il Regno Unito volesse far ricadere la sua partnership con l'Unione Europea. Quindi è un processo in ogni caso che durerebbe molti molti anni. Ma cominciamo da come stanno le cose adesso, dopo l'assassinio della parlamentare laborista Jo Cox, non una corbiniana, molto impegnata sui diritti umani, presidente della Commissione Interparlamentare Britannica per la Siria, e naturalmente era contraria a Brexit, uccisa da uno squilibrato, insomma sto Tommy Mer non si riesce bene a capire. Certo, gli hanno trovato adesioni a riviste suprematiste bianche di destra e così via, pare che avesse gridato Britain First, l'effetto è stato però di grandissimo impatto sulla politica britannica, sospensione della campagna elettorale. Punto interrogativo adesso sugli effetti, visto che i sondaggi davano, non tutti, però davano in vantaggio chiaramente il Leave rispetto al Remain In. Ecco, cominciamo da questo, e per aiutarci a capire insieme con noi una docente di storia politica al Goldsmith College dell'University of London, Marzia Maccaferri. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Cominciamo dalla valutazione dell'effetto. Secondo lei qual è l'effetto dell'assassinio Cox sulla campagna? Beh, sicuramente avrà un effetto. I bookmakers, che in questo momento di sondaggi fermi, la campagna elettorale, campagna referendaria è ferma fino a martedì, quindi sostanzialmente possiamo essere fare affidamento sui bookmakers oggi per parlare, danno un'inversione di tendenza rispetto ai sondaggi degli scorsi giorni e dicono appunto che la Remain campaign è intorno al 66%. Naturalmente questo è giusto per introdurre l'argomento. La tragedia dell'assassinio di Jo Cox ha sicuramente un effetto. Dal mio punto di vista sicuramente ha effetto sull'elettorato laburista, soprattutto nella zona delle Midlands e intorno ai Leeds, dove appunto lei era stata eletta. Sicuramente li convincerà ad andare a votare. Perché uno dei temi che erano affiorati in quest'ultima settimana, ne parlavano sia Guardian che New Statesman, era la preoccupazione perché gli effetti della campagna tardiva, si sa che Corbyn non è un filo europeista di quelli. Esatto. Avevano avuto l'effetto di, tra virgolette, dico io, regalare, cioè far slittare parti consistenti dell'elettorato laburista verso il Brexit. Sì, anche questo, ma principalmente le analisi generali parlavano di un astensionismo, cioè nel senso di un elettorato laburista non convinto dagli argomenti della Remain campaign, che decideva di non partecipare al voto. Bisogna tenere presente che il referendum non è parte della cultura politica britannica, sono stati rarissimi nella storia politica britannica e questo sicuramente ha un effetto nel convincere un elettorato a non partecipare. Si vota di giovedì, bisogna tenere presente anche questo, e quindi l'atto di andare a votare è una scelta rispetto alla nostra cultura, certo, italiana deliberata, consapevole, più, certo. Quindi c'era un bias rispetto a quelli molto motivati, che erano quelli favorevoli al Leave, che sarebbero andati a votare in massa per rabbia o per antagonismo, e ovviamente una maggioranza silenziosa o più tiepida che non aveva questo stesso stimolo. In effetti le analisi ci dicono che l'effetto più probabile è proprio un aumento del turnout, della partecipazione al voto, se siete d'accordo su questo, ma non soltanto territoriale, proprio ideologicamente su tutta la nazione. Sì, sicuramente questo dà un ulteriore spin alla campagna elettorale, è triste dirlo, naturalmente è un effetto devastante da un certo punto di vista, sono 200 anni che non avviene un fatto per fortuna di questo tipo nella storia politica inglese, l'assassinio di un membro del Parlamento, e quindi assieme alla scelta razionale e la Brexit a favore o contraria all'Unione Europea può essere anche considerata come una scelta razionale. Il dibattito si era molto concentrato sulla parte economica e sulla questione delle migrazioni, naturalmente. Ecco, la morte di una giovane deputata laburista impegnata così tanto in campagna umanitaria e a favore dell'Unione Europea sicuramente dà un impatto emotivo e quindi convincerà l'elettorato laburista ad andare a votare. L'argomento che viene usato contro la nascita, l'origine del referendum, che fu promesso a David Cameron per vincere le elezioni del 2015, nessuno avrebbe scommesso che le avrebbe vinte, poi le ha vinte, però l'argomento che era quello, vuoi affermare così la tua piena leadership su un partito conservatore, in realtà ti si è già ritorta contro, perché prima dell'assassinio Cox quello che sembrava sempre più evidente è che i Tories erano pronti non solo a celebrare Brexit, ma scontato ormai negli esiti dei post, ma soprattutto a cacciare lui, perché nei gruppi parlamentari e membri del governo, fior di membri del governo, ormai puntavano a un'altra leadership, e questo era sempre più evidente. Cioè, è stato un autogol clamoroso da questo punto di vista. Sì, sembrerebbe proprio così, che Cameron abbia un po' sbagliato tutta la sua strategia, in ultimo anche la tattica politica. Il referendum era sicuramente nato per cercare di mantenere la sua leadership all'interno del Partito Conservatore e per riattirare verso il Partito Conservatore i voti che erano andati agli UKIP, naturalmente. Ricordiamo, primo partito alle europee, comunque alle ultime politiche, più del 12% dei voti, poi un solo eletto, però 12% dei voti non pochi. Sì, esatto. Naturalmente questo, il fatto che non abbia una grande rappresentanza in Parlamento non significa che non abbia un seguito all'interno del territorio inglese. È decisivo per far perdere collegi poi ai Tories contro il laburismo. Esatto, e quindi Cameron era stato costretto da un certo punto ad aprire alle istanze degli UKIP. È stato probabilmente un autogol. Da un certo punto di vista Cameron si era preparato il terreno, perché in un'intervista prima delle elezioni aveva fatto sapere che questo sarebbe stato comunque il suo ultimo mandato. Sì, vero. Ma il segno prevalente dal punto di vista di chi è lì e vede non solo la City, Londra, insomma, ma la Gran Bretagna profonda, col cuore, le Midlands e così via, è la preoccupazione, la campagna dell'immigrazione, che è stata una delle cose martellanti del Brexit, uno, due, oppure l'idea dell'Unione Europea, regolamenti impostici, oppure C, la manifattura che dice, perché anche in Italia c'è questa roba, meglio la svalutazione, facciamola svalutare un po' il pound, così ripartiamo. Ci sono tutti e tre questi aspetti, ma qual è quello prevalente del cuore profondo che aveva gonfiato i sondaggi del Brexit? Sicuramente la questione delle migrazioni, che è stata propagandata sulla stampa, non soltanto la stampa, diciamo, right wing di destra a favore del Brexit, ma anche la stampa laburista, il martellante richiamo al fatto che Unione Europea uguale a migrazioni dall'Unione Europea, sia in termini positivi che in termini negativi, ha trasformato il dibattito completamente su questa questione. Non c'è assolutamente altra analisi da fare. Il resto è conseguente. La migrazione e le questioni delle migrazioni in un sistema economico funzionante, perché in questo momento in Gran Bretagna non è in crisi economica come viene percepita il resto dell'Unione Europea, e quindi un po' la paura di essere invasi, fra virgolette, naturalmente, da migranti europei, in parte questo può essere anche considerato una percezione non giusta, perché i numeri non sono tali, ma la percezione è sicuramente quella: girare per Londra è come girare un po' tutte le capitali europee. No, poi sappiamo che sul tema della migrazione la percezione è un effetto micidiale della distorsione della formazione dell'opinione. È una percezione distorta, perché abbiamo visto le analisi pubblicate da The Independent, c'è un bias, c'è una enorme, deformazione enorme tra la percezione e la realtà. Però chiedo se la divisione ideologica è proprio tra testa e pancia, perché a Londra, che è il posto più cosmopolita del mondo, penso, insieme a New York, a Londra mica hanno paura degli immigrati, e Londra si è arricchita con gli immigrati. Paradossalmente Londra, ci aspettiamo, e tutti i polls dicono questo, che sia massicciamente favore, almeno l'Innerland, del Remain. Paradossalmente quei posti invece della campagna inglese, dove gli immigrati francamente non se ne vedono, provo a entrare in un pub inglese, l'immigrato francamente non lo trovo, posso trovare il naturalizzato, questo sì, no? Chiedo, non è una separazione veramente fra testa e pancia, tra un argomento nazionale ripetuto e non ascoltato, e i tabloids e il commento veramente fatto al pub in dialetto, fatto per fondamentalmente per ignoranza, possiamo dire questo, perché non c'è stato dibattito sui numeri per il Leave. No, ha pienamente ragione. Si può dire, sì, certo, che è una differenza tra testa e pancia, ed è una differenza. Londra non è naturalmente il Regno Unito, Londra è un'isola a parte, è uno stato nello stato, concedetemi questa espressione. Il resto dell'Inghilterra, la parte verso, e la Scozia poi naturalmente è un'altra questione, o come anche il Galles, però l'Inghilterra e i territori fuori da Londra sono un'altra cosa sostanzialmente. Comunque lei attualmente si sentirebbe di dire che il riequilibrio ci sarà forte fino al punto da far prevalere, da quello che si capisce a oggi, poi vediamo di qui a giovedì, il Remain, sì. Ci sono, naturalmente, ovviamente si aspettano i risultati, eccetera, con tutte le varie preoccupazioni. Io ero convinta che la campagna del Remain avrebbe vinto di una piccola maggioranza. Ah, in ogni caso, lei diceva, sì. Sì, questo prima delle ultime due settimane. I sondaggi avevano dato una piccola... avevano fatto vedere una tendenza verso il Leave. Tuttavia bisogna ricordare che i sondaggi nelle ultime tre elezioni hanno, e soprattutto sul referendum scozzese, hanno completamente sbagliato, hanno completamente toppato. Credo che questo debba far riflettere un po' tutti gli analisti che fanno i referendum. Le ultime due settimane sono sempre normalmente sbagliati. Allora, noi abbiamo, ohimè, il tempo che incalza, quindi intanto io ringrazio tantissimo Marzia Maccaferri e punzecchio il mio compare qui, perché testa e pancia, lo so, ma la suffragio universale prevede la testa e la pancia, cioè prevede classi dirigenti che utilizzino entrambi i linguaggi, poi ce n'è una molteplicità intermedia quando si fa politica per il consenso, per avere buoni argomenti vincere, perché altrimenti perdi. Cioè, ma, e questa ma, roba qua, ma mi va vale, bene, vediamo infatti, nei ballottaggi in Italia la stessa cosa. Con te d'accordo, mi spiace, ma i referendum istituzionali sono fondamentali, sono sale della democrazia, esatto. Bisogna usare sia argomenti di testa sia argomenti di pancia. I politici che non sono in grado di parlare questi due linguaggi, bravo, vadano a casa. Bravo, bravo, questa è la mia, cioè, siamo d'accordo su questo, teniamo 3 minuti. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Jacobo. Notte prima degli esami, notte di aritmia. 3 ore in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Maturità. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Ed eccoci tornati in diretta alle 10.38, primi 12 secondi in questo sabato che a Milano, boh, probabilmente non piove ma il monsone è previsto comunque come tutti i pomeriggi. Sabato 18 giugno, siamo qui con i compari dei Conti della Belva, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Questo speciale Brexit, abbiamo cominciato a valutare gli effetti sui sondaggi dell'assassinio tragico della parlamentare laburista Jo Cox con Marzia Maccaferri. Marzia Maccaferri, un po' di ottimista, ho detto ma secondo me alla fine per effetto anche di questo ma il Remaining può vincere rispetto al Leave. Adesso iniziamo ad approfondire l'enorme capitolo delle conseguenze economico-finanziarie di un'eventuale vittoria del Brexit. Qui ci sono 3 sfere diverse. Primo, cosa significa per il Regno Unito? Cioè il Regno Unito in cui la componente più elevata del valore aggiunto del GDP del PIL è quella dei servizi finanziari, quindi grandissima piazza finanziaria. Cosa succede se esce fuori dall'Unione Europea? Si dislocano i servizi finanziari, quante grandi banche se ne vanno, dove vanno? In Italia si è straparlato, io ho un po' sorriso, ecco che l'Italia si prepara adesso a prendere le banche che fuggono da Londra per venire da noi, perdonate il mio infatti, sorriso ma io già immagino già immagino la scena ci sono un sacco di filiali disponibili se vogliono i locali fisici sono disponibili e so che a volte si fa fatica a leggere i giornali italiani senza pensare che veramente lo spirito di corte ma a restare seri si fa fatica a leggere i giornali italiani. Ma anche seri, cioè la stampa questa 2 giorni fa ha fatto un titolo ieri, grande piano del tesoro, ma non parliamo però, di questo. Però nel corpo dell'articolo c'era scritto, esatto, non è un piano formalizzato, però magari un po' di moral suasion, magari andiamo a chiedere, no, perché scusa, l'articolo era scritto Alessandro Barbera che è una persona seria, assolutamente, fatto il problema che era... come spesso accade sta nei titoli. Però detto questo, c'è un problema che riguarda quindi quanto conta la svalutazione che a quel punto avverrebbe per, come cuore forte del, per la manifattura britannica, per dire ma sì, che è l'argomento poi del in Italia per uscire dall'euro, questo qui. E poi sul bilancio, è vero o è falso quello che dice Cameron che significherebbero buchi fino a 30 billion di pounds da dover reperire? Per quanti anni andrebbero avanti le conseguenze? E questo riguarda il Regno Unito. Poi c'è un problema che riguarda l'Unione Europea in quanto tale. E c'è un problema che riguarda l'Italia, perché riparte la spread dance. Noi se guardiamo i flussi significa quelli bilaterali tra Italia e Regno Unito, se guardiamo quello degli scambi commerciali diretti, uno, due, quello degli investimenti diretti, noi verso loro, loro verso noi, se guardiamo l'immigrazione reciproca, in realtà tutti dicono, ed è così, nella linea dei grandi paesi europei siamo meno esposti, ma il problema è che noi siamo i più esposti dopo la Grecia, lo si è visto in queste rovinose settimane di cadute della borsa, naturalmente alle nostre banche, al nostro debito pubblico. Allora, questi 3 ambiti, iniziamo ad approfondirli con Alberto Gallo. Alberto Gallo è il capo della strategia macro di Algebris e io lo ringrazio di aver accettato il nostro invito a parlare di questi temi. Lei innanzitutto, grazie di essere con noi, ma è ottimista o pessimista? Qualunque sia il suo punto di vista, chi vince? Faccio così non lo svelo. Secondo lei è più probabile il Remaining o il Leave? Il nostro scenario base è per una vittoria molto marginale del Remain, che comunque non risolverebbe molti problemi strutturali del Regno Unito. il vero punto è che il Regno Unito ha avuto una ripresa molto forte, ha ricevuto capitali da tanti altri paesi quando c'era la crisi in Europa, perché era considerato un paese rifugio. Però in realtà la crescita è stata creata spendendo molto, con un deficit alto e creando una bolla immobiliare. E tutti questi problemi si sono accumulati. Adesso la popolazione vede la Brexit come una specie di scorciatoia per raggiungere una specie di nirvana. In realtà i problemi ci sono ancora, c'è un deficit del 6%, molti tagli alla spesa, 6 punti di PIL di tagli anche agli ospedali e alle pensioni. E queste scelte difficili hanno arrabbiato molto la gente, quindi il voto di Brexit è diventato quasi un voto contro il governo più che guardare alle vere anche perché in quel caso l'austerità è fatta per tenere le tasse basse, non è per niente imposta dall'Europa, cioè i tagli del governo attuale. Corretto. Quindi se scambiano proprio l'oggetto, ma partiamo dal core del problema, cioè le banche e il sistema finanziario. Se la Gran Bretagna se ne va, chi ha ragione tra chi, Banca d'Inghilterra in testa, Carney si è dovuto difendere dagli attacchi dei Brexiteers che gli hanno detto tu eri impegnato a stare muto e invece la tua banca ha fatto report in cui dici c'è un'enorme distruzione di valore per il settore dei servizi finanziari che sono la nostra grande forza, chi ha ragione e chi ha torto? Diciamo che il giorno dopo, se dovesse vincere la Brexit, quindi Leave, non succede niente, perché c'è un processo di 2 anni durante il quale si decide cosa fare e l'Unione Europea ha anche però la possibilità di controbattere, quindi se c'è un'uscita amichevole, con una negoziazione amichevole, può darsi che la situazione rimanga così come oggi, però potrebbe esserci anche uno scenario di uscita cattiva in cui l'Unione Europea reagisce diventando più forte, più federale, che è un progetto che, ricordiamo, il Regno Unito forse ha un po' ostacolato in passato. In questo caso la Francia e la Germania potrebbero richiamare le banche, alcune funzioni delle banche nelle proprie capitali. Quindi il Regno Unito si gioca un po'. Io c'è una cosa che non ho capito. Scusi un secondo, questo che spieghiamolo, perché sui giornali, compreso il Sole, ho letto che perché una delle ragioni di fondo è che il Regno Unito sulle stanze di compensazione, cioè sulle clearing house delle transazioni finanziarie denominate in euro, dovendo accettare la direttiva che le trasferisce tutta nell'euro area, in questo Londra perdeva un mucchio di peso, quindi questa, dal punto di vista della City, la City non la conta giusta sul fatto che sia davvero una sconfitta l'uscita, perché anzi è una difesa di una grande prerogativa fondamentale per il sistema delle transazioni finanziarie. Ma su questo c'era stata un'eccezione riconosciuta a favore di UK, non è così? È vero, però se dovesse uscire... Però diciamolo allora ai nostri ascoltatori, perché sa, a volte anche nell'informazione italiana ci sono delle singolari cose che mi colpiscono. La BCE, se il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione Europea, la BCE, che ha dato l'eccezione per alcune transazioni denominate in euro, potrebbe revocarla effettivamente. Quindi questo ovviamente è una parte di tutto il business finanziario, però potrebbe, insieme a tante altre cose che potrebbero avvenire, potrebbe spingere alcune banche, per esempio Deutsche Bank oppure le banche francesi, a tornare a Francoforte o a Parigi. Adesso la City rappresenta più o meno un quinto del PIL, perché ci sono le banche, ci sono le assicurazioni, c'è tutto l'indotto e il voto di Brexit ha anche polarizzato molto la popolazione, perché nel resto del paese i benefici della ripresa finanziaria non si sono visti, quindi è diventato un voto contro il governo, un voto contro Londra in un certo senso. A Londra, è più un voto contro le classi dirigenti UK che contro le classi dirigenti degli eurocrati. Anche, esatto. Esatto, cioè, quindi ha preso questa connotazione come voto di protesta. Però il vero problema è che anche con la Brexit non si risolvono tutti questi problemi strutturali che il paese ha accumulato. Cioè, come anche abbiamo visto in altri paesi, il voto di protesta spesso si propone come una soluzione, come una scorciatoia per risolvere tutti i problemi, ma così non è. Il Regno Unito ha avuto una ripresa molto buona per gli asset finanziari e per le case, quindi i ricchi hanno fatto più soldi, mentre invece i salari sono rimasti più o meno così come erano, anche se la disoccupazione è più bassa e abbiamo un tasso di crescita migliore rispetto ad altri paesi europei. E adesso appunto c'è l'austerity e quindi molte persone si sentono lasciate fuori fondamentalmente. A me risulta difficile capire come il trade-off possa essere favorevole per la manifattura e l'export britannico, che ha un ruolo comunque inferiore rispetto al nostro, che è il drive della crescita breve finché va bene il commercio mondiale in Italia, con i 400 miliardi di esportazioni che facciamo, che però è importante comunque per il Regno Unito, in un paese che ha il 46% delle esportazioni rivolta verso l'euroarea, cioè far saltare il mercato unico, perché non mi pare che i tedeschi, Schäuble ha detto ve lo sognate che poi siamo buoni con voi su questo, non mi pare che sia un grande vantaggio, mi sbaglio? Allora, io sono d'accordo, se penso che la Germania e anche la Francia poi in caso di Brexit reagiscano o debbano reagire duramente anche per evitare che questo poi diventi un precedente per altri paesi. Adesso nel caso di Brexit la sterlina, che è più o meno a 1,4 contro il dollaro, potrebbe scendere diciamo tra 1,1 e 1,2, quindi diciamo scende di un 20-30%. Allora, l'effetto iniziale che i pro-Brexit vedono è che il manifatturiero potrebbe vincere, le esportazioni aumentano. In realtà poi il Regno Unito ha un'economia soprattutto di servizi, cioè metà delle esportazioni sono servizi e metà del commercio è con l'Unione Europea. Questo noi sappiamo sempre che è un, diciamo, il vantaggio da deprezzamento è un vantaggio abbastanza temporaneo, perché comunque nel lungo termine il Regno Unito per il manifatturiero deve competere con la Cina e non potrà mai pagare gli operai diciamo meno della Cina. C'è molto meno manifatturiero rispetto agli anni 60, dove c'erano appunto c'era la Mini, esatto, c'era l'MG, tutte le macchine inglesi, adesso non ci sono più, ci sono soltanto Carlo Alberto, fabbriche Carlo Alberto. Di altri paesi. Ma io devo chiedere però a un Londoner di scusarsi col resto dell'Inghilterra, perché se c'è una frattura invece che dobbiamo leggere è proprio fra the city and the country, no? E quello che vediamo è che è un risentimento profondo che sta emergendo verso una Londra e tutti i suoi sodali, corifei, no? Globalisti e il resto dell'Inghilterra, che invece è rimasta a un linguaggio e a un reddito, a ragioni di scambio molto diverse. Quindi Londra che è cresciuta e il resto dell'Inghilterra che non è cresciuta, le medie ingannano. Quindi chiedo, ma state facendo un po' di mea culpa anche voi Londoners? Povero Alberto Gallo. No, è quello che dicevo prima, il voto è diventato un voto contro Londra e contro la classe dirigente. Però questo diciamo trend di polarizzazione della crescita, cioè dove abbiamo visto anche in America, dove per esempio la costa est e la costa west sono cresciute molto, e invece il centro, gli operai e tutti quelli che lavoravano nelle costruzioni non hanno più lavoro. Ed è un risultato un po' delle politiche monetarie che sono state fatte negli ultimi anni. Nel senso, se tu fai quantitative easing, abbassi i tassi di interesse, gli asset sia finanziari che immobiliari salgono, la gente che ha già degli asset, quindi diciamo i ricchi fanno più soldi, i poveri non fanno soldi, si perdono meno posti di lavoro, però comunque è una crescita, come dire, drogata da questo qui, e poi magari il governo non fa le politiche necessarie. Aspetti, io la interrompo, perché per chi ascolta deve capire bene, questo argomento così tecnicamente rilasciato da Alberto Gallo è un argomento esplosivo e minoritario, perché mentre voi sentite dire da tutti che le politiche monetarie, il QE, cioè gli interventi anticrisi, sono per diminuire gli effetti su chi sta peggio delle vittime della crisi, gli effetti misurabili dicono l'esatto contrario, cioè il QE serve solo a fa due grandi favori, ovviamente ai paesi più indebitati gli abbatte gli interessi sul debito pubblico, quindi a noi il governo, lo Stato, secondo gonfia i prezzi degli asset e snatura il mercato dei titoli pubblici e degli altri asset che vengono acquistati, ecco, quindi è per gli indebitati e per i ricchi il QE, come ha appena detto, e torniamo sul punto tra un minuto, Alberto Gallo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed ecco la domanda delle domande per Alberto Carlo, il capo di strategia macro di Algebris. In caso di Brexit, l'effetto domino possibile per l'Europa, ma non solo, prima che altri paesi decidano o meno di seguire la stessa strada, cosa che Monti dice, come si farà a impedirlo? Se vogliono fanno il referendum. Ma soprattutto, il ballo dello spread a cui della BCE è attivo, quanto espone un paese come l'Italia col sistema bancario che ha nelle vostre valutazioni, Gallo? In caso di Brexit sicuramente ci sarà un allargamento dello spread, però bisogna anche ricordarsi che c'è il pronto intervento della BCE che ha detto che sarebbe comunque pronta a reagire, quindi diciamo alcuni giorni dopo, se non immediatamente, potrebbe aumentare gli acquisti di buoni del tesoro e altre obbligazioni. Alta, secondo lei nella vostra valutazione è pronta anche ad aprire un canale permanente immediato d'emergenza, un telefono rosso con, sì, Bank of England, ma anche sul cambio, cosa che molti dicono che è impossibile? Cambio non credo, perché comunque per quanto riguarda l'euro alla BCE, diciamo, farebbe piacere un euro un po' più debole e ci hanno provato per molto tempo, però c'è già un accordo con la Bank of England su una, diciamo, una pronta reazione successiva a una potenziale uscita. Allora, se però diciamo se lo spread si allargasse più di un certo livello. Comunque dobbiamo aspettarci volatilità sui mercati in caso di un voto di leave, diciamo, di Brexit. Ma quindi con effetti secondo lei che sono contenibili alla luce dell'effetto ulteriore di sviluppo rapido di politiche non ortodosse dalla politica monetaria, quindi c'è un cuscino di sicurezza secondo lei sufficiente a evitare per l'Italia di finire nei guai seri? C'è un cuscino per il breve termine, il vero problema è che comunque nel lungo termine, a seconda di come gli accordi poi potranno essere sviluppati tra il Regno Unito uscito, diciamo, e l'Europa, se la Brexit dovesse accadere, ci potrebbero essere comunque una perdita di crescita forte per il Regno Unito. Lo Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato delle stime che dicono che in tre anni, quindi 2017, 18, 19, il Regno Unito perderebbe circa quasi 15 punti di PIL cumulato, quindi uno scenario avverso molto forte. Ovviamente poi ci sono delle conseguenze geopolitiche di altro tipo, perché se l'Europa viene destabilizzata poi questo va a beneficiare altri. No, diciamo, ma poi vuol dire che esca dall'Unione Europea una potenza detentrice non solo di un arsenale atomico proprio, ma del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU, e che resta con un patto di difesa poi con l'altra potenza nucleare, cioè la Francia. Beh, è chiaro che la Russia batte le mani, perché l'Europa occidentale resta debole, debole, debole. Renzi era a Mosca per quello, del resto, ieri. Torniamo dopo Giornale Radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in studio in diretta in questo sabato con uno speciale dedicato al referendum, restare nell'Unione Europea o uscirne del Regno Unito, questo è il 23 prossimo. Gli saluti Oscar Giannino, insieme a lui in studio Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, un po' di ascoltatori, perché molti ascoltatori ci rimproverano di non avere colto il punto fondamentale, riabbracciare la sovranità, basta con un'Europa a cui si devono disgrazie eccetera eccetera, e parlate solo di bilancio economici come se uscire avesse un costo superiore a restare. Se volete sovvertiamo e non parliamo di queste cose, però capisco che per molti la scelta della sovranità nazionale, il ritorno alla lira, sia ormai diventato un inno seduttivo. Comunque, detto questo, iniziamo a sentire alcuni di voi. Angelo da Milano, prego Angelo. Buongiorno, un saluto a tutti. Guardi, io sono un ignorante in materia fondamentalmente, no? terza elementare, mettiamola così, ma l'Inghilterra ha distrutto completamente negli ultimi anni la sua economia di produttiva, le aziende produttrici non sono più, tutto, come dicevate giustamente prima, è tutto fondato sui servizi. Io sinceramente, se dovessero uscire, sono più molto contento come europeista, perché questo costringerà l'Europa a fare passi un pochino più in avanti con l'Europa, con l'integrazione dei paesi. Anche perché, parliamoci chiaro, a breve, come avete detto giustamente voi, quello che dovranno sopportare gli inglesi non sarà molto simpatico. A medio breve non lo so, ma a breve sarà dolorosissimo per loro. E questo spaventerà molti euroscettici e questo forse porterà un passo veramente a fare un passo in avanti all'Europa. Io la vedo così, poi magari sbaglio, per carità di Dio, non è una questione di punti, la sua tesi in sintesi è, Angelo, escono, pagheranno un prezzo, se ne capirà l'effetto, e quindi chi vuole spezzare l'Europa avrà di che ragionare, e in più la politica europea dovrà fare passi verso il federalismo. Io, insomma, non è la Grecia che se esce senza aiuti finisce in fondo al mondo, il Regno Unito non ha desertificato la manifattura, ne ha meno di prima, perché ha accelerato i valori, il passaggio a servizi ad alto valore aggiunto, però come quelli della finanza, e quindi noi prima abbiamo fatto un conto dicendo chi si illude che la manifattura recuperi con la svalutazione monetaria, si illude nel breve, poi nel medio lungo, sai, se hai perso la facoltà di girare liberamente con i tuoi prodotti nel 46% di destinazione del tuo export, è chiaro che paghi un prezzo a quel punto, cioè l'Europa. Però io devo dire la verità, io all'accelerazione federalista a breve, se c'è Brexit, non ci credo. Cioè io, le elezioni tedesche sono il 2017, mi dispiace, la Germania parla chiaro, non c'è un passo possibile. Beh, però, verso... però Oscar, lo stesso Schäuble ha detto scordiamoci e scordatevi che conseguenza di una Brexit possa determinare l'accelerazione verso una ever closer Europe, cioè un'Europa sempre più stretta, cioè l'unione politica. Lo ha detto perché evidentemente ritiene infattibile allo stato attuale, ed è veramente fantascienza, ma anche perché se poi dopo si avviene la Brexit e si comincia con il diluvio retorico dell'Europa sempre più stretta, dell'unione politica, degli Stati Uniti d'Europa, eccetera, c'è una buona possibilità che la reazione nelle popolazioni, diciamo, dei vari stati sia esattamente, sia proprio un effetto contrario, e quindi forse Schäuble è stato abbastanza astuto. Ecco. Poi io devo dire la verità, cioè io all'ipotesi che l'Italia si metta alla testa di questa unione dei trasferimenti, i tedeschi pagano il nostro debito eppure gli NPL delle banche italiane, scusate, beato chi ci crede, ma io oramai conosco i miei polli, chi la scrive nell'informazione perché fa carriera per questo. E i regolatori italiani difendono con questa tesi che propalano la copertura delle loro responsabilità sul passato del sistema bancario italiano. Questa è la sintesi che appare ai miei occhi. Tagliente, sì, molto tagliente. E molto scocciata anche nel vedere che tanti italiani di livello non denuncino questa maniera di ridurre il problema, come se la colpa degli NPL italiani fosse dei tedeschi e la colpa del debito pubblico italiano fosse dei tedeschi. Chi lo dice mente per la gola! Perché ha da coprire un po' di responsabilità. Oppure, e questo lo capisco di più però, ha da prendere dei voti con questi argomenti. Lo capisco di più questo secondo, non mi ci unisco, ma lo capisco di più rispetto a chi lo fa invece avendo responsabilità istituzionale. Mia opinione, tagliente, minoritaria, querelatemi. Benissimo, ce la vediamo in tribunale se mi querelate. Allora, sentiamo Giuseppe da Piacenza, come la pensa? Sì, ciao Oscar, guarda, per una volta sono in totale disaccordo con te. Ah. Tu dici che queste elezioni sono... diciamo la sintesi della democrazia per un popolo. Invece, sì, secondo me, il fallimento dei politici. Sì. Ma cosa ne sappiamo noi di decidere su una cosa del genere? Io al massimo posso decidere se fare le Olimpiadi in Italia o no. Ma di economia, quando tutti gli economisti sono persino d'accordo, in disaccordo, uno dice una cosa... Cosa ne sappiamo noi, popolo, di decidere una cosa? Dovevano decidere i politici, punto e basta. Poi un'ultima cosa, no? Ma la democrazia, Giuseppe, aspetta, la democrazia serve a svelare e a sostituire, in teoria, oltre che a magari a far continuare a governare chi è più bravo a prendere i voti, serve anche a svelare le incapacità e a sanzionare le incapacità dei politici? Sì. E allora, guarda che non so se la pensiamo davvero diversamente. Comunque tu dici sono argomenti troppo complessi per farli decidere agli elettori dal basso. Io credo che ci sono scelte di fondo. Far parte di un'Unione Europea è una scelta di non è solo la convenienza, è un'altra cosa, no? Su questo l'opinione pubblica non ha gli strumenti per capire. Secondo me bisogna spiegarglieli bene. Da una parte c'è chi ha puntato sul nazionalismo e paura degli immigrati. Dall'altra parte è ovvio che non puoi ragionare solo dicendo vi convinco con quanto conviene alle banche, perché sennò non sei in grado di intercettare una parte profonda di convinzione. Come dicevo prima qua, mentre ero nella pausa, Margaret Thatcher, quando ci fu il referendum nel 1975 nel Regno Unito, disse ai Tories... Lei è figlia di un droghiere, parlando al cuore della Gran Bretagna popolare, non a quella dei banchieri. Ragazzi, noi dobbiamo starci perché avremo tutti i vantaggi del mercato unico, ma non abdicheremo mai a uno dei nostri principi. E questa è stata l'Unione Europea per la Gran Bretagna, perché la Thatcher sapeva dirlo e l'ha fatto. E io vorrei che il Regno Unito restasse in Unione Europea, perché per me quello è un modello. Noi abbiamo bisogno di un'Europa più come si può fare con i britannici che come la vogliamo noi, statalista, mutualista, per coprire i nostri debiti e la perdita delle nostre banche con gli altri. Magari mi sbaglio, ma io la penso così. Alessandro Fiorentino. Allora, Alessandro Fiorentino è un ascoltatore che però vive e si è trasferito lì? Sì, buongiorno. Dove vive? Dove vive e dove opera lei? Io vivo vicino a Reading. Posso dire anche il paese, si chiama Newbury, ma si scrive Vodafone. Cioè, Reading così. C'è un grande carcere dove fu imprigionato Oscar Wilde, se non ricordo male. Non ne sono a conoscenza, andrò a fare un giro. Come si trova? Mi trovo, a parte il tempo, ma vedo che anche a Milano sì, oramai. Mi trovo bene. Mi trovo bene perché i servizi funzionano, funzionano veramente bene. E, diciamo, è una realtà un po' diversa forse dal resto dell'Inghilterra, perché è un piccolo paese con una forte immigrazione europea, ma anche da altre parti del mondo, soprattutto indiani, diversi russi. Noi lavoriamo nel campo dell'IT, quindi facciamo consulenza IT. Certo. È un mondo che non vive molto le dinamiche del resto del paese, è poco presente, poco visibile il problema della Brexit. Ma lì la gente come la pensa? Ho fatto delle domande, ho chiesto a dei colleghi, ho chiesto a delle persone, sono un po' divisi. La realtà io penso che sia un'altra. Voi dite non si arriverà mai agli Stati Uniti d'Europa, ma io penso che al popolo interessi poco avere o gli Stati Uniti d'Europa o la singola nazione, interessa avere potere di acquisto. C'è chi stanno molto lavorando, stanno molto, cioè, l'opinione pubblica è divisa perché ci sono politici che fanno un po' la Salvini, chiaramente anche qui lavorano molto sull'immigrazione, i taxisti sono tutti stranieri, portano via lavoro, e queste sono le preoccupazioni della gente comune. Poi che siano Stati Uniti d'Europa o il singolo Stato sovrano, realmente conta veramente poco. Voi parlate molto di finanza, giustamente, ma la domanda che faccio io è: l'Europa non ha nessun senso di colpa per questo referendum? Io credo che vogliamo tenere un'Europa così. No, esatto, io penso che Alessandro abbia molto buon senso con questa sua visione. Ripeto, ha ragione anche Alessandro, come Carlo Alberto prima, a dire che bisogna tenere conto del fatto che la gente ha quelle preoccupazioni, ma se non ci sono buone ragioni per combattere quelle preoccupazioni con gente sensata che dia una prospettiva di Europa, l'Europa non può andare avanti perché sono quattro illuminati a mandarla avanti, come dice Monti. Io almeno temo che sia un po' così. Intanto grazie per questa testimonianza a Alessandro Fiorentino, un italiano che vive e lavora lì, e torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta per continuare ad approfondire il significato, il possibile impatto di una uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e il tema del referendum, questione lì il 23. C'è un precedente, l'abbiamo visto, la Groenlandia, piccolo, molto piccolo, poco significativo, però la stessa Groenlandia ci mise 3 anni prima di riappattumare poi le regole per le aree di mercato condiviso con l'Unione Europea, e ci stiamo interrogando sul fatto che poi l'Unione Europea e le classi politiche che credono nell'Europa hanno delle pesanti responsabilità, ci diceva il nostro ascoltatore. E tu, per voi che pensate, Carlo Alberto e Mario? Io penso che non si può chiamare Unione un'entità politica che non ha una chiara politica migratoria e la fa rispettare, perché per me la cittadinanza è condizione fondamentale. Quindi io ascolto il grido di dolore che arriva dagli britannici, e che non è solo in Inghilterra, perché con un 49 o un 51 sì, non cambia il problema. Il problema è che abbiamo la pancia di uno dei più grandi paesi d'Europa che ci dice che la politica migratoria dell'Unione Europea è inaccettabile e comunque incomprensibile, e io penso che questo sia legittimo, e lo dico da grande tifoso dell'immigrazione voluta, selezionata e diciamo accrescitiva del capitale intellettuale e professionale di un popolo, tutt'altro, come dire, tutt'altro che xenofobo. Però dico che senza una rigorosa modalità di ammissione della cittadinanza l'Europa fallisce profondamente nella sua promessa di legalità. A me, pare, a me pare che appunto non bisognerebbe chiamarla Unione Europea ma Sommatoria Europea, perché tanto, tanto è disfunzionale. Il ruolo del Regno Unito come pungolo, diciamo, verso un minore, così, una minore sclerotizzazione, un minore irrigidimento, una ipernormazione, eccetera, è sempre stato fondamentale. Spero che possa continuare ad esserlo, sinceramente, perché abbiamo bisogno del valore aggiunto del Regno Unito. Dopodiché, visto che diciamo la sovranità e la democrazia sono sovrane, non dimentichiamo che molti messaggi sono ipersemplificati, come sempre accade in questi casi. Cioè, voglio dire, Osborne, che per terrorizzare i sostenitori della Brexit dice ci sarà un aumento delle tasse, taglio di spese, una manovra da 30 miliardi di sterline, anche no, diciamo. Però al contempo i sostenitori della Brexit, che, ma anche soggetti altolocati, cioè persone, ministri, intellettuali e quant'altro, che dicono vabbè, noi potremo sceglierci l'immigrazione, no? Alla fine potremo anche frenare l'immigrazione proveniente dall'Unione Europea e al contempo saremo liberi di fare prosperare il nostro export e i nostri servizi finanziari in primis. Beh, vuol dire prendere per i fondelli l'elettorato che si muove di pancia. Poi tutte le aspirazioni sono lecite, legittime. Il bagno di sovranità e di democrazia è ben accetto e venga pure. Sono certo che i britannici sapranno gestirlo meglio di altri, però attenzione, ripeto, come dissi e come continuerò a dire, c'è una cosa chiamata transizione che è molto costosa, perché non dimentichiamo, questo è un referendum che nella sostanza tecnica giuridica è consultivo. Sì, sì. Cioè questo non determina automaticamente un evento, perché il governo britannico, qualunque esso sarà, deve attivare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona e avviare i colloqui, al punto che potrebbe anche non succedere nulla per molto tempo. Alcuni esponenti della Brexit vogliono questo anche per fare posare la polvere, esatto, diciamo, e far tranquillizzare le cose, mentre per contro, in ambito eurocomunitario, diciamo, quindi olandesi, tedeschi, francesi, eccetera, si dice benissimo, se però voi non attivate l'articolo 50 del Trattato di Lisbona e cominciate unilateralmente a rivedere la legislazione europea che ancora vi riguarda, ad esempio Corte di Giustizia Europea e quant'altro, vi arriva la ritorsione in testa. Esatto. Quindi, voglio dire, si chiama sovranità. Attenzione, perché non siamo monadi, nessuno vive nel vuoto. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Perché naturalmente poi in questo periodo di tempo ci sono grandi, pesanti voti nazionali che costringerebbero i politici a intervenire su questa partita, esatto. Esasperando i toni nazionali della ritorsione. Cioè è una spirale di conflittualità che si sa come comincia ma non si sa come finisce, esatto, perché esatto. Si vota poi in Germania, si vota in Francia, si voterà in Italia il 26, tre giorni dopo. Molti sperano che in Spagna vinca Podemos e vinca Julio Iglesias e scusatemi, Pablo Iglesias mi sono autocorretto però per fortuna ed è una cosa che anche quella ha un impatto, perché se Iglesias riesce, rubando voti ai socialisti, a prendere la maggioranza risicata e la grande coalizione latina anti, che serve a sbaraccare tutte le riforme liberali in Rajoy, che molti in Italia pensano, e anche tra i sostenitori del Presidente del Consiglio, pensano essere la vera risposta a Brexit, cioè incalzare la Germania dicendo o si fa l'unione della mutualizzazione oppure, signori, come vedete, ecco che i pezzi se ne vanno. Allora, per ragionare su queste cose, due nuovi ospiti ci hanno raggiunto da una parte, proprio per capire un pochino se è realistico immaginare l'accelerazione federalista che molti propongono anche in Italia dopo l'eventuale Brexit, come la pensano i tedeschi su questo nel quadro di una trattativa complicata, pluriennale, in cui conteranno anche le elezioni nazionali. Abbiamo, per parlare di questo, Udo Gumpel, che è giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca RTV del gruppo Bertelsmann. Grazie di essere con noi, Udo. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. E ci ha raggiunto anche Leonardo Baggiani, economista e blogger. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Udo, tu come la vedi? La realtà è che il realismo dà ragione all'avvertimento tosto di Schäuble, che ha detto: se scegliete Brexit non pensate poi di avere la porta spalancata per gli accordi sul single market, perché pagherete un prezzo amaro. Oppure per realismo poi i tedeschi, se i britannici scelgono Brexit, tentano di comporre gli effetti negativi a domino in tutti gli altri paesi europei di segno opposto, ma che avrebbero nei tedeschi il vero colpevole, come si fa in Italia, come sempre, su questo. Ah, io credo che gli inglesi, lo governo inglese capisce che una uscita, un Brexit, un leave, lasciare l'Unione, comporterà anche a breve delle conseguenze, perché è un club che si fonda sulla volontaria adesione. Se uno esce non è che adesso può avere ancora la Golden Card dell'Unione, ovvero i pagamenti dell'Unione all'Inghilterra, il Give My Money Back e tutti i vantaggi di accesso al mercato comune. Gli inglesi si illudono, quelli che credono che sia un grande affare. Il mondo finanziario gran parte ha detto che non è che adesso domani traslocheranno sul continente, ma molte aziende che sono dei grandi datori di lavoro hanno detto che non gli interessa un mercatino di 60 milioni quando di fronte hanno uno rimanente di 440 milioni. L'Unione Europea ha nell'Inghilterra di circa il 3,5% del suo mercato interno, mentre per gli inglesi la Comunità Europea corrisponde a più del 10% delle loro esportazioni. Dunque noi siamo circa due e mezza a tre volte più importanti per loro che rispetto loro per noi, dunque è una grande illusione. Io però penso che l'animo in Germania è molto diviso, c'è una parte che spera che questa venga, il Brexit, perché dice così vediamo un attimo che si possa anche vedere nell'esempio della Gran Bretagna, che non è un paese piccolo, debole, che ha delle conseguenze negative, molto negative dell'uscita dall'Unione, e credo che le conseguenze saranno anche immediate, con una notevole perdita della quotazione della sterlina, e significa che peraltro le importazioni in Inghilterra saranno più care, perché poi provengono proprio dall'Unione. E poi c'è un'altra illusione, è quella di cui parlavate prima, l'illusione che serpeggia naturalmente nei paesi del sud Europa. Sì. E si crede che questo possa portare ad una maggiore integrazione finanziaria, soprattutto che la Unione Europea si trasformi in quella unione da transfer e di pagamenti sociali da nord a sud, ovvero l'unione bancaria, che le banche del nord, che da un lato la propaganda leghista e di altri dice che sono completamente in rovina, ma allora se io mi faccio garantire da banche completamente in rovine come le Sparkasse, allora meglio non farlo, no? Ma non è vero, esatto, questo. Esatto, perfetto. Allora, questa è una grande, grande illusione, naturalmente, in Italia, in Spagna, in Portogallo, anche in Grecia, e che anche in Francia, in parte, che l'uscita dell'Inghilterra porti ad una maggiore integrazione, anzi, porta ad uno stop deciso della integrazione, perché i paesi al di nord della linea, diciamo, dell'euro debole, all'interno dell'euro c'è una zona euro debole e una zona euro forte, quei paesi diranno non trasformeremo adesso, con l'uscita dell'Inghilterra, l'Unione in quella che si chiama il transfer da nord a sud. L'Italia ha vissuto questo transfer dalle parti industrializzate del nord verso la Calabria, verso la Sicilia, verso le parti del Mezzogiorno, ma quale effetto ha avuto questo transfer di 50 anni di benefit sociali? Zero. Non ha avuto nessun effetto positivo, ed è quello che si pensa nel nord, perciò la stragrande maggioranza dei politici dei paesi del nord pensa che i problemi non si risolveranno con una maggiore integrazione finanziaria, anzi con l'uscita dell'Inghilterra questa si blocca. Dunque bando alle illusioni e vedere la realtà dei fatti. Bene, grazie a voi per questa visione chiara, tagliente. Io lo sto scrivendo dalla prima all'ultima. Quindi vuoi dire, Oscar, che i tedeschi non ci pagano i debiti? Ma guarda, uno ce lo ricorda sempre. Ti dirò di più. Ma sono sempre troppo italiani. Penso io che sia il miglior favore che ci possano fare non pagarceli. Questa, lo so che mi espongo alle derisioni di titolati cattedratici che sono a testa di guru italiani, però detto alle teste di sette. diretta italiana. Però non mi io la penso così, io voglio che sia così. Viva chi ce lo ricorda come Udo Gumpel. Naturalmente nel mainstream dei grandi giornali italiani, dei più autorevoli amici di chi è alla testa delle istituzioni finanziarie italiane, la pensa al contrario. Dice che sono i tedeschi che non hanno capito che i loro strumenti, per esempio aver piegato verso il bando agli aiuti di Stato sulle banche in difficoltà, significa non aver capito nulla, perché lo Stato ci vuole di più. È il governatore della Banca d'Italia che ce lo dice, capite? La Banca d'Italia, che era la testa degli sviluppi europeisti del nostro paese, che è diventata la portabandiera della contestazione frontale delle norme europee. A me questo fa molto impressione. Oscar, un giorno nei libri di storia, perché adesso non lo vede quasi nessuno, qualcuno riuscirà a capire che questa stretta sovranazionale sugli standard, i criteri e quant'altro relativi alle banche ha scoperchiato questo pentolone di vermi fumanti italiani. Non so se riusciremo a leggerla. Questa cosa qualcuno un giorno, forse al di là dell'arco biologico delle nostre esistenze, però qualcuno se ne renderà conto. Speriamo. Allora, noi torniamo tra un minuto e con Leonardo Baggiani ci poniamo il problema. Ma insomma, dentro o fuori, che cos'è che per l'Italia minoritaria, di chi vorrebbe appunto i conti in regola, meno tasse, meno burocrazia, perché in questo l'Unione Europea c'ha delle pesanti responsabilità, ma noi a casa nostra diciamo che ce ne abbiamo grandissime, ma per chi la pensa così è meglio avercela dentro o fuori come punto di riferimento la Gran Bretagna? Torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con Compari di Conti della Belva, sempre a interrogarci. Adesso abbiamo ampliato un pochino il raggio dopo aver visto le conseguenze economiche e finanziarie prevedibili in caso di uscita dalla Gran Bretagna. Per la Gran Bretagna ci siamo posti il problema, ma in Europa l'effetto domino, i tedeschi cambierebbero e davvero direbbero: ma sì, cari italiani, cari spagnoli, se vince le elezioni il 26, Iglesias, siamo pronti finalmente, vi apriamo i cordoni della borsa, ma sì, vi aiutiamo ad abbattere qualche decina e decina di punti di debito di PIL che avete fatto. Fatto, perché no? Perché altrimenti poi qualcun altro pensa di andarsene, meglio che serviamo le fila. No, ci dice Udo Gumpel, in Germania non avverrà questo. E però, punto di fondo, ma per chi in Italia, sconfitto fino a questo momento, minoritario, voleva meno tasse, meno spesa, più mercato, questa settimana abbiamo avuto nelle ultime due settimane due relazioni molto interessanti delle autorità di mercato con l'antitrust e così via, in cui si capisce che i temi della concorrenza e nei temi dei trasporti proprio non c'è un passo avanti, diciamo, solo passi indietro da questo punto di vista, con effetti sull'efficienza generale dei servizi a voi tutti i cittadini, dei costi, della ripartizione dei costi, il fatto che sulla dimensione sociale. Esatto, quindi però detto tutto questo, a chi vorrebbe un po' di queste cosettine qua, invece che dibattiti in cui sembra che il problema di fondo sia altro, come è avvenuto con i ballottaggi nelle grandi città italiane? Cosa deve pensare? Che è meglio che la Gran Bretagna se ne vada o che resti e dia una mano? Restando c'è una minoranza di blocco liberista del 35%, ecco, che è quella che serve nei trattati europei per alcune decisioni economiche importanti. Allora, su questo la domanda è chiara, però la risposta di un economista che abbiamo scelto perché appunto è un austriacheggiante, appunto, cioè è di quelli che pensa che queste cose ci vorrebbero. Però cosa lo posta a dire Leonardo Baggiani? Meglio che stiano dentro o meglio che stiano fuori? Ma, la mia opinione è che sarebbe meglio se il Brexit vincesse, questo perché la burocrazia europea, l'Unione Europea deve sentire da una parte il peso del fallimento che sta arrivando, cioè la possibilità che ci sono stati che si vogliano staccare, che riescono a staccarsi con successo, e dall'altra parte alcuni membri che fino ad oggi hanno giocato un pochino sul facciamo un po' come, diciamo, come vogliamo, la disciplina fiscale, sì, la seguiamo fino a un certo punto, eccetera, si sono avvantaggiati dell'ombrello dell'Unione Europea, degli aiuti che sono arrivati anche dalla Banca Centrale, da trasferimenti, eccetera. La possibilità che il progetto europeo fallisca, secondo me, è un ottimo stimolo per questi paesi un po' opportunisti a cambiare anche la politica interna, quindi collaborare maggiormente verso gli obiettivi dell'Unione, su quella famosa disciplina fiscale. Però Baggiani, i più pensano che in caso di vittoria del Brexit, a avvantaggiarsi in quei paesi ideali, l'Italia, insomma, parliamo del nostro, che è quello più o meno uno dei paesi di cui parla, anzi quello che ha più debito pubblico, e che sta impegnandosi per espandere sempre di più i margini di deficit autorizzato, perché questa è la chiara direzione imboccata da Padoan Renzi. Con Padoan che contesta le regole comuni dell'output gap, eccetera, eccetera, eccetera. Però in un paese come il nostro, dicono molti osservatori, la vittoria del Brexit produrrebbe più probabilmente un effetto opposto a quello che dice lei, cioè di dare argomenti a chi in nome dell'immigrazione, del viva Putin, viva la svalutazione, viva la liretta, e facciamo il super ministro che metterà i dazi alle importazioni straniere, e così via, a cui sono candidati alcuni degli autorevoli economisti guru italiani a fare il super ministro dell'economia, così decidono tutto loro, come avveniva negli anni 70, ai tempi della liretta, però, e che porterebbero argomenti a quelle tipi di impostazioni che sono più facilmente vedibili. Lei che dice? Non la vedo esattamente in questo modo, perché alla fine qui stiamo parlando della Gran Bretagna, cioè di un paese che su alcune materie magari nemmeno era coinvolta, che aveva già, per esempio, i contributi che vengono pagati all'Unione Europea, aveva già degli sconti su 18 miliardi che dovrebbe pagare annualmente, 5 sono abbonati, e era un paese che non era nemmeno nell'area euro, quindi era il più distaccato dagli altri, certo. Era già il meno coinvolto nella prospettiva del super stato europeo e della politica fiscale comune. Già questo, che era lontano in qualche maniera, si è staccato. Non vedo come questo significhi che gli altri allora si andrà verso un'integrazione maggiore, verso una politica fiscale europea, verso una omologazione dei sistemi fiscali. Non lo vedo, vedo piuttosto il contrario, vedo un progetto che potrebbe fallire se l'Unione Europea non cambia completamente strutture, non cambia completamente, diciamo, indirizzo. Ah, bene, non diventa più leggera, non posso dire, riconoscendo in qualche maniera più l'indipendenza degli stati, non incentivi piuttosto una maggiore concorrenza fiscale fra gli stessi, costringendoli finalmente a rimettere mano alla propria pubblica amministrazione e alla gestione delle finanze pubbliche. Ecco, io siccome quello io... che Tassi voleva esserci, scusami, che voleva esserci già con la moneta unica. E che non c'è stato, perché qui le responsabilità della simmetria degli effetti della moneta unica vengono accollate a chi non mutualizza, non a chi tiene separati i mercati. Questa è la grande cosa. La moneta unica non è certamente un esempio di marco tedesco. Esattamente. Allora, questo punto di vista, che è un punto di vista che può sembrare paradossale, ma secondo me può essere l'esito su cui molti che la pensano un po' come noi dovrebbero lavorare all'indomani dell'eventuale vittoria dell'uscita. Ecco, perché... ripeto, se come me difende il referendum e il fatto che ci vogliono politici capaci di vincerli, e se poi vince chi se ne va, ma è su una posizione o su un'impostazione economica che è affine a quella che tu vorresti anche nel tuo paese, non puoi dire allora però la diamo vinta a chi vuole più spesa, più tasse, più unificazione, omologazione e burocrazia. Quindi io ringrazio Leonardo Baggiani, perché è uno dei pochi che ha il coraggio di dire questo punto di vista, che può apparire paradossale e minoritario, ma secondo me non lo è troppo. Torniamo un secondo a un'analisi di tipo macro, con gli effetti a quel punto su Europa e Italia in caso di Brexit. Abbiamo un punto di vista diverso, abbiamo sentito prima quello di Algebris, e adesso è con noi collegata Maria Paola Toschi, che è strategist di JP Morgan. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Voi come la vedete dal vostro punto di vista? Nel caso di uscita, effetti a catena sull'Europa e disposizione dell'Italia sul suo debito contenuti, perché tanto c'è zio Mario che salva tutti, oppure effetti che possono essere imprevedibilmente più seri di quello che si immagina? Sicuramente c'è una forte componente di incertezza, e questo anche perché questo referendum, diciamo, che è stato forse anche un po' sottovalutato in questo periodo, anche perché fino, diciamo, a una decina di giorni fa sembrava essere prevalente, diciamo, l'orientamento a favore della permanenza dell'Unione Europea, quindi diciamo che si erano un pochettino sottovalutati, no? Gli effetti. Sì, poi è arrivato lo shock della vittoria nei sondaggi invece dell'IV, poi adesso è arrivata la tragedia dell'assassinio. Esatto, quindi c'è stato un po' un cambiamento molto repentino, no? Di orientamento, però chiaramente negli ultimi 10 giorni si è un po' accelerata anche la valutazione dello scenario di uscita. Lo scenario di uscita è quello che prevede implicazioni più secondo noi imprevedibili e anche sfavorevoli. Diciamo che il nostro punto di vista deve valutare sia la componente economica e sia la componente finanziaria. Componente economica abbiamo già visto, ci sono stati tanti punti di vista molto rilevanti e penso che effettivamente l'effetto più sfavorevole sarebbe per il Regno Unito, per tutta una serie di cambiamenti che potrebbero essere messi in atto. Il paese quindi potrebbe, diciamo, vivere una fase di rallentamento che è già in atto. Abbiamo già una serie di indicatori che hanno messo in evidenza come l'incertezza abbia rallentato la crescita nel Regno Unito. Per esempio anche il settore immobiliare, che è un settore importante da monitorare, ha messo in evidenza un forte calo della chiusura di compravendite nel contesto inglese. Però quanto questa fase di rallentamento sarà importante dipenderà poi da molti fattori, cioè dipenderà ad esempio dalle decisioni delle banche di valutare nuovi spostamenti delle proprie filiali presenti nel Regno Unito, dipenderà dal anche riposizionamento in termini di flussi commerciali, dipenderà magari anche proprio da quel flusso di investimenti diretti che vengono fatti nel Regno Unito, che potrebbero subire un rallentamento, potrebbero essere quindi... In effetti il quadro di interventi obbligati del Bank of England a sostegno di fronte a segnali di rallentamento della crescita, di fronte a una svalutazione del tasso di cambio, potrebbero essere, sì, da una parte un pochino diminuisce l'esposizione alla bilancia dei pagamenti nel saldo corrente, ma dall'altra non invoglia molto gli investimenti esteri, che soprattutto per esempio nell'immobiliare vengono soprattutto dall'area extra UE, Russia e paesi arabi, piuttosto che dell'Unione Europea. Quindi secondo me chi sopravvaluta l'effetto sul manifatturiero e partite correnti dimentica che il quadro della politica monetaria sarebbe tale da frenare soprattutto anche l'afflusso di capitali esteri, che sono stati fondamentali invece nel modello di crescita britannico. Sbaglio secondo lei? Niente, però siccome poi non viviamo, come sappiamo, in economie isolate, ci potrebbe essere un effetto anche per i paesi della Unione Europea, perché sono paesi che sono forti anche esportatori verso il Regno Unito e quindi ci potrebbe essere un periodo in cui verranno ridefiniti tutti i regolamenti, i trattati, no? Secondo i quali questi scambi commerciali verranno regolati. Maria Paola, però devo chiederti di sbilanciarti sui risparmiatori italiani. C'è qualche classe di asset, qualche portafoglio che potrebbe essere più a rischio in questi prossimi giorni, se non altro per la volatilità? Allora, innanzitutto che secondo me è molto importante, così come consiglio generale anche per gli ascoltatori, distinguere tra due situazioni, cioè gli effetti di breve termine in termini proprio di mercati finanziari e l'effetto di lungo termine. Sicuramente se dovesse essere confermato uno scenario di Brexit, quindi di uscita, ci sarebbe una fase di volatilità sui mercati, una fase di incertezza. Ne abbiamo visto qualche assaggio proprio settimana scorsa, quando sembrava in ascesa la parte degli elettori favorevoli a Brexit. Questo significherebbe quindi una fase di correzione dei mercati azionari, che sono sempre più sensibili, no, a queste situazioni, ma abbiamo visto anche quello che normalmente viene chiamato come una corsa ai cosiddetti beni sicuri. Quindi questa corsa, per esempio, ha visto privilegiare nell'ultimo periodo per esempio il Bund tedesco, che è considerato forse una delle asset meno rischiosi, ha visto una forte ascesa anche dell'oro e anche di altre asset class che vengono paradossalmente ha visto però che il gilt andava meglio, non peggio. Il gilt andava meglio perché questo è il bello della finanza. Cioè, della gilt finanza, tradotto per chi non è del mestiere, il decennale britannico pubblico, insomma. Ecco, e quindi che ci dice anche quanto oggi sia importante magari cercare di farsi anche un po' aiutare sui mercati finanziari, esatto, perché le componenti sono complesse. Il gilt è andato bene, infatti il rendimento è ai minimi e quando i rendimenti sono bassi vuol dire che i prezzi sono alti, perché la banca centrale inglese ha dichiarato molto chiaramente, molto apertamente, che in caso di Brexit sarà disponibile, esatto, a iniziare una nuova fase di politica monetaria e quindi di immissione di nuova liquidità sui mercati. Si torna qui. Proprio per e quindi può diventare un bene rifugio anche quello, anche dal quadro della Brexit. Quindi, insomma, cari ascoltatori, come si vede, il rischio di ballare c'è molto comunque. Quindi ci vuole un consulente per il vostro portafoglio. Io ritengo che in caso di sismi con elezioni, alla fine la debolezza del sistema bancario italiano diventa un fattore negativo potentissimo e presente. Questo è, diciamo, nei nostri interlocutori di oggi è un fattore che è rimasto molto molto molto sotto traccia per ragioni che capisco. Io un po' la penso così e spero di non enfatizzare troppo questo rischio, che a mio occhio invece è molto molto forte, come si vede negli andamenti borse da inizio d'anno. Se andiamo a vedere la parte FTSE britannico è -2, -3, noi siamo a -25 da inizio d'anno, perché i bancari sono la grande piaga sanguinante sul totale delle quotate italiane. Quindi grazie intanto anche a Maria Paolo Toschi. Noi torniamo tra un minuto con Renato Cifarelli. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui, tornate con la compagnia dei compari dei Conti della Belva, a cui si aggiunge Renato Cifarelli. Renato, come stai? Bene, voi? Sei per Brexit, su, e di la verità. No, io comunque vada sarei per l'annessione di casa mia e la mia azienda all'Inghilterra. Guarda, divendo tuo cameriere e vengo insieme a te, mio padrone, guarda. Voglio te come padrone e i britannici come paese, guarda, questa sarebbe la mia linea. Io chiederei l'annessione più che altro, cioè comunque vada. Dai Renato, che ci hanno beneficato, ci hanno spostato i termini dei pagamenti tributari anche quest'anno, questa settimana, dai. Volevo parlare di quella cosa lì, perché alla fine questo è il paese dell'incertezza, no? Allora adesso c'è parlavamo dell'incertezza di Brexit oggi e dell'incertezza sui mercati dovuta a Brexit, ma noi italiani siamo i maestri dell'incertezza. Del thriller. Esatto. Perché ormai siamo ridotti in questa situazione. I commercialisti sono diventati gli impiegati dell'ufficio delle entrate. È così. Nel senso che loro non fanno altro che fare tutto l'input dati che una volta veniva fatto dagli impiegati dell'Agenzia delle Entrate per l'Agenzia delle Entrate. Il tutto con programmi che vengono forniti all'ultimo momento e con, in questo caso parliamo di studi di settore che vengono forniti all'ultimo momento utile. E quindi inizia la contrattazione tra gli impiegati dell'Ufficio delle Entrate, cioè i commercialisti, e l'Ufficio e l'Agenzia delle Entrate, per dire: ma scusa, se tu mi hai dato gli studi di settore una settimana fa, mi spieghi come faccio io a mettere dentro tutti i dati? Esatto, comincia tutta la trattativa e all'ultimo momento il re, che naturalmente, perché Carlo Alberto prima diceva che lui è contrario alle monarchie, ma si dimentica che ce n'è uno che, anzi, questo è un re assoluto, no? Come il re costituzionale. Esatto. Cioè, il re che nella sua benevolenza concede il rinvio, ed è una cosa che è assolutamente, cioè proprio contro qualsiasi cosa che possa aiutarci a lavorare meglio. Ma non c'è dubbio, perché impedisce di pianificare. Poi ripeto, di tutto questo, cioè, è tutto pagato da noi questa roba qua, cioè i funzionari dello Stato, cioè i commercialisti, sono pagati da noi. Il rischio in caso di inadempienze o se non arriva a quel punto la cosa, ecco, esatto, e però la colpa è nostra. Ma che meraviglioso paese che è questo sistema tributario, e bisogna anche poi strisciare benignamente memori e grati che il sovrano ci ha concesso il beneficio anche quest'anno di ammettere che le sue scadenze lui non è in grado di rispettarle, perché lui viene sempre meno alla sua parola, perché lui viola la legge per primo, perché lui è lo Stato italiano il nemico della crescita, appunto. Grazie Renato, io ci metto il sale, ma la notizia l'hai dato tu. Continuate con Radio 24, appuntamento con noi sabato prossimo, con me Alessandro Mina alle 8:15 ogni mattina. Attenti a noi due.